Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è un piccolo produttore a Bari di stampanti 3D o stampanti con l'additive manufacturing che si chiama Roboze e che ha lavorato molto su tecnologie innovative. Oggi parliamo del racconto di quello che è successo a Roboze, che da Bari è riuscita a vendere la sua stampante per l'additive manufacturing a General Electric, che la utilizzerà in tutto il mondo, in particolare nell'ambito di un centro di competenza sull'additive manufacturing che sta in Giappone, e questo diventerà uno standard GE, di cui parleremo più diffusamente nella puntata di oggi, cioè General Electric, è una delle più grandi aziende del mondo e soprattutto è un leader mondiale nella manifattura, e ha deciso di fare un'intera divisione sul additive manufacturing perché crede moltissimo in questo metodo di produzione. Ricordo che la manifattura tradizionale si fa dal pieno al vuoto, cioè c'è un pezzo grezzo, si tolgono delle cose e si ottiene il pezzo finito. Il concetto innovativo di additive manufacturing è l'opposto. Io creo il pezzo dal vuoto perché in genere metto assieme delle polveri con vari sistemi e quindi non ho scarti, ho una produzione personalizzata. Sono anche chiamate stampanti 3D in modo volgare, anche perché esistono le versioni casalinghe, quelle che permettono anche ai cosiddetti makers di fare piccoli gioielli, piccoli accessori, piccoli cosmetici. C'è stato un po' un fenomeno mondiale. A livello industriale la cosa è molto importante, viene utilizzata per pezzi unici, pezzi su misura, pezzi da fare immediatamente, per esempio i ricambi di motori degli aerei da fare sul posto. In questo settore GE, con il suo stabilimento di Cameri, è all'avanguardia, ma General Electric non si è accontentata e ha deciso di fare proprio una divisione sull'additive manufacturing, e al cuore di questo ci sarà, pensate voi, una stampante additiva professionale industriale realizzata da dei piccoli produttori di Bari, da questa Roboze, per dire che l'economia interconnessa, l'economia 4.0, offre anche delle nuove opportunità a chi è bravo. Nei tempi in cui non c'era questa interconnessione, sarebbe stato difficile da Bari con una piccola azienda arrivare a General Electric. Oggi è possibile. Di tutto questo e di altro ancora, di tutte le attività che General Electric svolge nel manifatturiero, ne parliamo oggi con l'amministratore delegato di General Electric, che è Sandro De Poli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo un attimo di questa stampante additiva che dalla piccola Bari è stata acquisita da voi. Come mai? Evidentemente avevamo bisogno di fare un'esperienza utilizzando le tecnologie più moderne nel campo della stampa 3D, in questo caso i materiali compositi, e verosimilmente, visto che l'acquisto è stato fatto dal Global Research Center di GE, cioè dal polo di ricerca più importante di GE, evidentemente questa stampante è stata identificata quanto quella più rispondente alle necessità come rappresentazione dello stato dell'arte del momento. E allora abbiamo acquisito la stampante di Roboze, che farà parte delle attività che svolgeremo all'interno della nuova divisione di Additive Manufacturing, che è la seconda grande novità che in pochi anni General Electric ha annunciato nel mondo dell'economia 4.0, perché solo un paio d'anni fa, se non ricordo male, voi avete annunciato la costituzione di, come si chiama, GE Digital, che praticamente è una software house creata al vostro interno, mettendo insieme le vostre competenze per il software industriale e proponendole al mercato. Assolutamente. È cominciato 4 anni fa, un percorso cominciato 4 anni fa, che ha visto l'investimento ad oggi di 2,5 miliardi di dollari e che ha portato allo sviluppo di una piattaforma aperta per il mondo digitale industriale. Ecco, questa si chiama Predix e dopo ci arriviamo. Però io intanto volevo partire per dire che General Electric è una società storica, è stata fondata da Edison, che è ricordato come l'inventore della lampadina. È nota per prodotti tecnologici molto hard, per esempio le turbine. Voi immaginate le turbine per la produzione di energia elettrica da gas oppure da idroelettrico, i sistemi di trasmissione di energia e di elettrificazione, i motori per gli aerei, i sistemi ferroviari, però ha deciso negli ultimi anni di trasformarsi anche in un erogatore di servizi alle altre aziende manifatturiere, vendendo fuori le competenze accumulate nelle proprie fabbriche, e quindi è diventata un enabler della manifattura mondiale, corretto? Assolutamente. Ecco, ma da quando è cominciato questo processo per cui le competenze acquisite al vostro interno le vendete a terzi invece di utilizzarle per fare le vostre turbine e i vostri motori per aerei? Diciamo, abbiamo cominciato questo processo di migrazione verso l'esterno, di commercializzazione di questa tecnologia nel 2016, dopo aver completato il percorso di sviluppo della piattaforma digitale e averla implementata all'interno degli stabilimenti del gruppo, cosa molto importante. Questo vuol dire che voi vi trasformate anche in un'entità che dà ad alcuni la possibilità di vendere i propri prodotti o le proprie invenzioni o innovazioni tecnologiche in tutto il mondo, come nel caso di Roboze. O anche nella vostra piattaforma Predix, se uno ha dei programmi software, li può diffondere nel mondo attraverso Predix. Assolutamente. Noi abbiamo sviluppato Predix inizialmente per le nostre piattaforme industriali. E con l'idea di sviluppare i moduli di applicazione necessarie alle nostre divisioni industriali e ai nostri prodotti. Ovviamente la piattaforma aperta, come dicevo prima, permetterà lo sviluppo di moduli, applicazioni, di apps, per usare un termine corrente, che saranno a servizio di settori industriali magari dove GE non opera, per la digitalizzazione dell'industria. Ecco, la manifattura interconnessa, l'Industry 4.0, è un fenomeno mondiale che non cambia solo le fabbriche, non è certo una cosa che si limita all'interno delle mura della fabbrica, e sarebbe già tanto, ma cambia la società intera. Occorrono delle competenze e degli strumenti abilitanti che sono di elevata complessità. E di fatto a fornirli ci sono nel mondo quattro colossi, che sono General Electric, Siemens, Bosch e ABB. Corretto secondo lei? Ma al momento attuale diciamo che è corretto. Non è necessariamente rappresentativo di quello che sarà il futuro. In questo dominio tutti stanno guardando, come dicevo, dallo stesso angolo nostro in buona misura. Cioè, sì? Tutto automatizzando, digitalizzando i propri prodotti e i propri processi interni e portando poi a disposizione del mercato quello che hanno sviluppato per l'interno proprio. A questo punto qui ci sarà è un po' quello che si è visto nell'industria dei software, si sono viste diverse piattaforme operative nel mondo dei computer, ci sono quelli che preferiscono una piattaforma rispetto a un'altra e qui pensiamo succederà la stessa cosa. Certamente. Questa è una partita che vogliamo giocare, però dobbiamo e vogliamo giocare in prima linea. Certamente, certamente. Comunque, ingegnerizzare dei prodotti e poi diffonderli nel resto del mondo e produrli in modo massivo, migliorandoli, è proprio nel DNA di General Electric fin dai suoi esordi. Ora, Thomas Edison è ricordato popolarmente come un inventore. In realtà Edison, che è il fondatore di General Electric, ha inventato ben poco, perché lui che cosa faceva? prendeva delle cose o dei brevetti che erano già esistenti o che erano esistenti in nuce o che non erano perfetti, li migliorava, li rendeva ottimali e iniziava la loro produzione di massa. Così sono nate alcune delle invenzioni, anzi degli oggetti che sono ricordati come invenzioni di Edison, ma in realtà sono ingegnerizzazioni di Edison e produzione di massa di Edison. Ve ne ricordo alcuni: il fonografo, la lampadina, le centrali idroelettriche, la sedia elettrica, la macchina per le riprese cinematografiche, la pellicola cinematografica da 35 mm e anche il sistema di distribuzione elettrica a corrente continua, che poi ha goduto di minore fortuna perché siamo passati alla corrente alternata. Ecco, General Electric nasce proprio da questo e dalla fusione dell'azienda di Edison, che si chiamava la Edison, che non ha niente a che fare con la nostra Edison italiana, che lo ricorda solo nel nome, ecco, la Edison, con la Thomson Houston Company, che era una società di ingegneria dell'epoca. Da lì è nata General Electric. E pensate che il banchiere d'affari che ha propiziato questa fusione era niente proprio di meno che John Pierpont Morgan, corretto? Sì, sì, certo. Ecco, e adesso voi avete fatto per la parte di General Electric che fa oil and gas, che corrisponde al vecchio nuovo Pignone, avete annunciato in quel di Firenze questo progetto Galileo con 600 milioni di investimento entro il 2020. Certo. Ed è un progetto molto importante a servizio del mondo oil and gas, con lo sviluppo di una gamma di prodotti di turbina a gas che servono alle necessità dei clienti di questo settore. Ecco, ci può raccontare qualcosa di più? Perché 600 milioni di investimento vuol dire ambizioni di fatturato molto importanti. Perché entriamo in questo caso con una gamma di prodotti completa nel mondo oil and gas, e noi siamo sempre dell'idea che il mondo oil and gas nei prossimi anni raggiunga una stabilità e di conseguenza una ripresa degli investimenti tale da giustificare il rinnovamento di piattaforme tecnologiche, e noi vogliamo essere pronti. Quindi per questo rinnovate completamente il nuovo Pignone, portiamo una produzione che non c'era a livello del Pignone, con una gamma di prodotti molto più estesa e soprattutto molto più moderna, di prodotti concepiti con i concetti dell'industria 4.0, cioè molto digitale all'interno di questi prodotti. Ecco, poi siccome ci resta ancora poco tempo prima di chiudere la prima parte della trasmissione, volevo tornare ancora a Roboze, di cui abbiamo parlato prima, perché l'economia digitale da un lato offre e distrugge i posti di lavoro meno qualificati, questo diciamocelo, però offre anche a chi ha un progetto intelligente la possibilità di affermarsi con maggiore facilità oppure con minori ostacoli rispetto a quelli che c'erano prima. Assolutamente. Ma allora, sulla distruzione dei posti di lavoro è qualcosa da scrivere, perché noi stiamo vedendo, portando il digitale nelle fabbriche, non stiamo vedendo un impatto particolare al momento, ovviamente. Dal punto di vista delle barriere di accesso, poter lavorare su tecnologie che richiedono minori livelli di investimenti iniziali è sicuramente facilitante, permette anche a operatori con capacità finanziaria limitate di poter fare cose molto interessanti. Bene, dobbiamo interromperci per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fabbrica 2.4. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, generale. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. Rieccoci in linea con la seconda parte di Fabbrica 2.4, che è dedicata alle attività manifatturiere di General Electric. Vi ho appena fatto ascoltare una clip tratta dal discorso che fa Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, un bel film di Oliver Stone nel 99, perché si vede il ruolo dell'allenatore che tiene insieme la squadra. E fa un po' pensare a quello che deve fare il capo di una holding come General Electric, che tiene insieme un sacco di business diversi: motori aeronautici, turbine a gas, turbine elettriche, healthcare, treni, e chi più ne sa più ne canti. Giusto, dottor De Poli? Sì. Ecco, ma voi di General Electric in che modo tenete assieme dei business così diversi? Dobbiamo cercare di essere molto focalizzati verso il mercato. I nostri clienti sono quelli dai quali dipende il nostro futuro. La difesa, la conquista di posizioni di mercato sempre crescenti, la difesa della nostra posizione sul mercato stesso è quanto facciamo tutti i giorni cercando di ottenere i migliori risultati possibili. Ma soprattutto li tenete assieme col digitale. E digitale, in questo momento, che è l'iniziativa, come dicevo prima, è cominciata nel 2016, ma il 2017 è il primo anno. È un'iniziativa che vedrà, sarà un po' il collante dell'attività di GE quest'anno e negli anni a venire. Ecco, comunque, per capire bene che cos'è GE, ascoltate qua. Fondata nel 1892 da Thomas Alva Edison, General Electric è da sempre una delle maggiori multinazionali del mondo e tra le più influenti. Non solo perché vanta 117 miliardi di ricavi e 330.000 dipendenti in tutto il mondo, ma perché, come dice la rivista americana Forbes, con le sue innovazioni General Electric cambia continuamente la vita di tutti noi. Aveva cominciato a farlo proprio Thomas Edison, responsabile dell'ingegnerizzazione e della produzione di massa della lampadina, del fonografo, delle centrali idroelettriche, della macchina da presa, della pellicola cinematografica a 35 mm e, last but not least, della sedia elettrica. E ovviamente di mille altri oggetti e strumenti che sarebbe impossibile elencare qui. Oggi le tecnologie brevettate o acquistate da General Electric contribuiscono a cambiare il modo di produrre e di vivere, con una forte focalizzazione su Industry 4.0 e manifattura additiva o stampa 3D. La strategia di General Electric prevede acquisizioni continue per integrare le migliori tecnologie, ma anche dismissioni di attività non più interessanti e redditive. Oggi l'azienda fondata da Edison è presente con le sue divisioni in motori aeronautici, motori navali, turbine per centrali elettriche e a gas, healthcare, macchinari per la produzione di cibo e bevande, hardware per le energie rinnovabili, attrezzature petrolifere. Di recente sono state create divisioni che si propongono di conquistare la leadership mondiale nel software industriale e nelle stampanti 3D. Da un paio d'anni General Electric si è data la mission di utilizzare il know-how e le capacità acquisite nei suoi stabilimenti per vendere software e servizi anche alle altre aziende, migliorandone la capacità produttiva. Da quasi 16 anni General Electric è guidata da Jeff Immelt, che ha preso il posto di Jack Welch, che l'aveva guidata per 20 anni. Fin dalla fondazione, i capi mondiali di General Electric restano al potere per lunghissimo tempo e sono di estrazione interna. In Italia General Electric è presente dal 1923, con 11.500 dipendenti e circa 8 miliardi di ricavi, generati all'80% dalla vendita all'estero dei manufatti prodotti qui. La sua attività di maggiore dimensione è il Nuovo Pignone di Firenze, comprata nel 1994 e fatta diventare il maggior centro di competenza mondiale per la fabbricazione di attrezzature oil and gas. Un altro importante centro di competenza mondiale localizzato in Italia è General Electric Aero, attiva nel settore aeronautico, per la precisione nelle trasmissioni meccaniche e nelle turbine a bassa pressione. Da segnalare anche l'importante presenza nel settore delle rinnovabili, grazie all'acquisizione delle attività energetiche di Alstom presenti nel nostro paese. Rieccoci in linea dopo la scheda, ci restano 3 minuti nel corso dei quali io volevo chiedere a De Poli, che è il capo di GE in Italia, il protagonista di questa puntata, che cos'è questo Predix, questo software sul quale loro puntano molto, che è un sistema operativo per l'industria, una sorta di Android dei telefonini ma per l'industria, giusto? È quello che Predix vuole diventare in prospettiva. Un software aperto per applicazioni di industria digitale. Ma praticamente è un software che consente di gestire tutte le macchine che operano in una fabbrica e contemporaneamente di raccogliere i dati e di analizzarli? Assolutamente, assolutamente sì. È un software basato su cloud con rispondenti ai più alti standard di cyber security a livello mondiale, sul quale girano applicazioni fatte da una parte per garantire il funzionamento ottimale delle macchine e che prendono i dati di funzionamento delle macchine stesse e li elaborano per metterli a disposizione di quelli che sono schemi di miglioramento di produttività, di qualità dei sistemi produttivi. Ecco, e in questo il vostro grande rivale è MindSphere di Siemens. Sì, assolutamente. Ma il software è completamente autonomo oppure c'è bisogno di collegarsi a piattaforme di IBM, HP o altri software house più tradizionali di questo tipo? Il nostro software è completamente autonomo, è un sistema aperto, cosa che noi possiamo dire tranquillamente, magari altri possono dire un po' meno, è fatto per girare su qualsiasi piattaforma cloud. Tant'è che abbiamo stretto un accordo di collaborazione con Microsoft per farlo girare su Azure di Microsoft. Mm-hmm. Abbiamo fatto un accordo con SAP, fatto un accordo con Oracle. Per cui se vuole vediamo grandi giocatori del mondo dell'industria del software aver fatto una scelta per il campo della digitalizzazione industriale a favore di GE. Benissimo, bene bene bene, abbiamo terminato questa puntata, purtroppo il tempo è tiranno, domani ci sarà una puntata dedicata alla modelleria Brambilla e al mondo dell'automotive, l'avventura della modelleria Brambilla secondo me è straordinaria. Salutiamo Sandro De Poli. Grazie, grazie. Saluto tutti gli ascoltatori, a risentirci domani ore 13:10.